Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Andrés aveva seguito lentamente il suo cammino. In teoria, per raggiungere con la massima velocità la sua meta, egli avrebbe dovuto presentare il salvacondotto datogli da Robert Jordan con il sigillo del SIM e il dispaccio che recava il medesimo sigillo. Ma aveva cominciato con l'incontrare al fronte quel comandante di compagnia al quale l'intera faccenda era sembrata molto sospetta. Aveva seguito questo comandante di compagnia al comando di battaglione, dove, udendo di che si trattava, il comandante del battaglione, che prima del movimento era stato un barbiere, si era entusiasmato. Questo comandante, un certo Gomez, ingiuriò il comandante di compagnia per la sua idiozia, batté la mano sulla schiena di Andrés, gli offrì un bicchiere di cattivo cognac e gli disse che egli stesso, l'ex barbiere, aveva sempre desiderato di fare il guerrigliero. Aveva poi svegliato il suo aiutante, gli aveva affidato il comando del battaglione e mandato la sua ordinanza a svegliare e portargli il suo motociclista. Invece di rimandare Andrés al comando della brigata col motociclista, Gomez aveva deciso di accompagnarlo egli stesso per non fargli perdere altro tempo, e così ora, con Andrés che si aggrappava al sedile vicino a Gomez, correvano fragorosamente, sussultando giù per la strada di montagna bucherellata dalle bombe tra la doppia fila di grandi alberi. Erano entrati nella piccola città in rovina, che era stata un posto di villeggiatura, dove era la sede del comando della brigata. Una sentinella sonnolenta si era messa sull'attenti quando Gomez l'aveva urtata, entrando nella grande sala dalle pareti coperte di carte, dove un ufficiale morto di sonno, con uno schermo di celluloide verde davanti agli occhi, sedeva a una scrivania, con sopra un lume, due telefoni e una copia di Mondo Obrero. L'ufficiale alzò gli occhi su Gomez e disse: «Che fai qui? Non sai che esiste il telefono?» «Devo parlare col tenente colonnello», fece Gomez. «Il tenente colonnello dorme», aveva detto l'ufficiale. «Chiama il tenente colonnello», disse Gomez. «Siamo qui per una faccenda della massima gravità». «Dorme, ti ho detto. Che specie di bandito hai qui con te?» chiese accennando a Andrés. «È un guerrigliero che ha passato le linee con un messaggio della massima importanza per il generale Goltz, che comanda l'attacco che sarà sferrato all'alba dietro Navaserrada», disse Gomez, serio ed eccitato. «Sveglia il teniente coronel, per amor di Dio!» Gomez tolse dal fodero la sua pesante Star 9 mm e l'appoggiò alla spalla dell'ufficiale. «Sveglialo, cane di fascista!» gli disse. «Sveglialo o ti uccido! Calmati! Calmati!» disse l'ufficiale. «Voi altri barbieri siete tutti calorosi!» Andrés vide la faccia di Gomez contrarsi per l'odio nell'alone del lume, ma egli disse solo: «Sveglialo!» «Attendente!» chiamò l'ufficiale con voce sprezzante. Un soldato si piantò nel vano della porta, salutò e sparì. Il tenente colonnello Miranda, un uomo basso, terreo, che aveva passata tutta la vita nell'esercito, che aveva perduto l'amore di sua moglie a Madrid, mentre egli stesso perdeva la digestione in Marocco, ed era diventato repubblicano quando aveva scoperto che non poteva divorziare da sua moglie, per la cattiva digestione non c'era rimedio, era entrato nella guerra civile come tenente colonnello. Aveva una sola ambizione: finire la guerra con lo stesso grado. Aveva difeso valorosamente la Sierra e desiderava che lo lasciassero là a difenderla ogni volta che fosse attaccata. «Che cosa ti porta qui, Gomez?» chiese, e poi all'ufficiale dietro la scrivania. «Dammi una sigaretta, per favore, Pepe». Gomez gli mostrò i documenti di Andrés e il messaggio. Il tenente colonnello guardò in fretta il salvacondotto, guardò Andrés, annuì e sorrise, e poi lesse avidamente il messaggio. Cercò il sigillo, lo palpò con l'indice, poi restituì il messaggio e il salvacondotto ad Andrés. «Gomez, ti consiglio di accompagnarlo con la motocicletta. Pepe, preparami per la firma un salvacondotto molto energico per l'estato maggiore del generale Goltz. Scrivilo a macchina, Pepe. Ecco qua i particolari». E fece segno ad Andrés di dare all'ufficiale il suo salvacondotto. «E mettici due sigilli». Si volse a Gomez. «Stanotte voi altri avrete bisogno di qualcosa di molto energico. È giusto, bisogna prendere tutte le precauzioni quando si prepara un'offensiva. Vi darò il salvacondotto più efficace che possa farvi. Pablo si fermò e smontò da cavallo nella notte. Robert Jordan udiva scricchiolii e respiri grevi mentre tutti smontavano, poi udì tintinnare la briglia di uno dei cavalli che scosse la testa. «Agustin!» disse Robert Jordan in un bisbiglio. «Tu e Anselmo verrete ora con me al ponte. Avete il sacco delle munizioni per la macchina?» «Sì!» disse Agustin. «Come no?» Robert Jordan si avvicinò a Pilar, che stava scaricando uno dei cavalli, aiutata da Primitivo. «Senti, mujer», disse piano. «Che c'è?» Essa sussurrò con voce roca, mentre scioglieva una delle fibbie della sella sotto la pancia del cavallo. «Hai capito che non si deve attaccare il posto di guardia finché non sentirai cadere le bombe? Quante volte occorre che tu me lo dica?» disse Pilar. «Stai diventando una vecchia brontolona, inglese». «Facevo solo per controllo», disse Robert Jordan. «Quando il posto sarà distrutto, ripiegherete verso il ponte e coprirete dall'alto la strada e il mio fianco sinistro. L'ho capito perfettamente fin dalla prima volta che me lo spiegasti», gli sussurrò Pilar. «Pensa al tuo lavoro. Nessuno faccia un movimento o spari un colpo o butti una bomba finché non udrà il rumore dei bombardamenti», disse piano Robert Jordan. Andò dove Pablo stava legando i cavalli. «Hai capito tutto?» chiese Robert Jordan. «Come no?» disse Pablo. «Distruggere il posto di guardia, tagliare i fili, indietreggiare in direzione del ponte, coprire il ponte finché non l'avrai fatto saltare e non muoversi prima che sia cominciato il bombardamento. Precisamente. Allora addio e buona fortuna». «Nient'altro?» disse Pablo. Aggiunse piano e confidenzialmente. «Siamo sempre a corto di cavalli». «Figlio di puttana», pensò Robert Jordan. «O forse crede che non l'abbia capito fin dal primo momento». «Io vado a piedi», disse. «I cavalli sono affar tuo». «No, ci sarà un cavallo per te, inglese», disse Pablo piano. «Ci saranno cavalli per tutti». «Pensaci tu», disse Robert Jordan. «Puoi anche non contarmi, se credi». E tese la mano dicendo... «Suerte, Pablo!» e le due mani si afferrarono nell'oscurità. Robert Jordan si buttò il sacco in spalla e andò verso i cavalli per cercare Maria. «Ciao, guapa!» disse. «Ci vedremo presto!» «Arrivederci, Roberto!» disse Maria. «Sta molto attento!» «Si capisce!» Piegò la testa per baciarla e il sacco gli rotolò sulla nuca, mandando la sua fronte a urtare con violenza quella di Maria. «E non piangere», disse imbarazzato non solo per il peso. «Non piango», essa disse, «ma torna presto». Non ti preoccupare quando sentirai sparare. Spareranno certamente molto. No, solo torna presto indietro. Arrivederci, guapa. Egli disse goffamente. Salut, Roberto. Egli andò verso Anselmo e Agustin che aspettavano in piedi e disse «Vamonos!». Anselmo si mise in spalla il suo pesante sacco. Agustin, già completamente carico fin dalla grotta, era appoggiato a un albero, il fucile automatico sporgente in cima al fagotto. «Bene!» disse «Vamonos!». I tre si incamminarono giù per la china. Camminavano cautamente in discesa. Anselmo in testa, Agustin secondo, poi Robert Jordan, che poggiava adagio i piedi per non scivolare. Così vennero giù per la ripida china boscosa fino al punto al di sopra del ponte dove Robert Jordan e Anselmo si erano fermati a guardare il primo giorno. Anselmo, che aveva urtato contro il pino nell'oscurità, afferrò il polso di Robert Jordan e sussurrò così piano che Jordan lo udì appena. «Guarda! Ha acceso il braciere!» Dove Robert Jordan sapeva che il ponte toccava la strada, si vedeva un punto luminoso. «Qui è dove ci siamo fermati a guardare», disse Anselmo. Prese la mano di Robert Jordan e l'abbassò fino a toccare un piccolo intacco fresco alla base di un tronco. «Questo l'ho fatto allora, mentre guardavi. A destra è il posto dove mettere la macchina. La metteremo proprio lì. Bene». Posarono i fagotti dietro i pini e seguirono tutti e due Anselmo fino allo spazio dove sorgeva un ciuffo di pini giovani. «È qui», disse Anselmo, «proprio qui. Da qui, con la luce del giorno», bisbigliò ad Agustin, stando accovacciato dietro gli alberi, «vedrai un piccolo tratto di strada e l'imbocco del ponte. Vedrai tutta la lunghezza del ponte e un piccolo tratto di strada all'altra estremità, prima della curva delle rocce». Agustin non disse niente. «Tu starai steso a terra, qui, mentre noi prepariamo l'esplosione, e farai fuoco su chiunque venga dal basso o dall'alto». «Dov'è quel lume?» chiese Agustin. «Nella garitta della sentinella, all'estremità del ponte, verso di noi», bisbigliò Robert Jordan. «Chi toglierà di mezzo le sentinelle?» «Il vecchio e io, come ti ho detto. Ma se non riusciremo a sbarazzarcene, allora dovrai sparare tu dentro le garitte e addosso a loro, se li vedi». «Sì, me l'hai già detto». «Non preoccuparti, inglese. Dove vai ora?» «Vado giù, con la mia piccola macchina. Il vecchio ora attraverserà la gola per essere pronto a piombare sull'altra garitta che guarda in quella direzione. Anselmo e Robert Jordan lo lasciarono lì e tornarono dove erano i loro fagotti. «Dove sarà meglio lasciarli?» sussurrò Robert Jordan. «Credo qui. Sei sicuro di poter togliere di mezzo la sentinella da questo punto con la tua piccola macchina? È questo esattamente il punto dove eravamo quel giorno? È proprio questo l'albero», disse Anselmo così piano che Jordan lo udì appena e capì che parlava senza muovere le labbra, come quel giorno. «L'ho segnato col mio coltello. Allora adesso attraverserò il valico e prenderò posizione dall'altra parte», disse Anselmo. Poi aggiunse: «Perdonami, Inglese, perché non ci siano errore, perché posso anche essere stupido». «Che c'è?» alitò pianissimo Jordan. «Ripetemi ogni cosa perché possa fare tutto a puntino. Quando sparerò, spara anche tu. Quando il tuo uomo sarà eliminato, attraversa il ponte e raggiungimi. Io avrò portati lì i pacchi e ti dirò come dovrai collocare le cariche. Ti dirò ogni cosa. E se mi succederà qualche cosa, fa tutto come ti ho insegnato. Fa le cose con calma, assicura bene le cariche con i cuni di legno e lega bene le bombe». «Ho capito tutto chiaramente», disse Anselmo. «Mi ricordo di tutto. Ora me ne vado, Copriti bene, Inglese, quando sarà giorno». Steso sul terreno della foresta sparso di aghi di pini, Robert Jordan tendeva l'orecchio a cogliere il primo fremito dei rami dei pini nel vento che si sarebbe levato con l'apparire del giorno. Sdraiato sul ventre, dietro al tronco di pino, il fucile sull'avambraccio sinistro, si mise a osservare il punto luminoso sotto di sé. Di tanto in tanto non lo vedeva più e capiva allora che l'uomo, nella garitta della sentinella, passava davanti al braciere. Così steso, Robert Jordan aspettava il giorno. Nell'intervallo in cui Pablo era tornato dalle colline alla grotta e la banda era scesa fino dove avevano lasciato i cavalli, Andrés si era andato avvicinando rapidamente al quartier generale di Golds. Giunti sull'autostrada principale di Navaserrada, su cui gli autocarri tornavano ora dai monti, furono fermati a un posto di controllo. Ma quando Gomez mostrò alla sentinella del posto il salvacondotto del tenente colonnello Miranda, la sentinella vi fece cadere il raggio di una lampadina, lo mostrò all'altra sentinella che era con lui e lo restituì salutando. «Siga», disse, «andate pure avanti, ma senza fari». Poi, davanti a loro, tutti i camion furono fermati e, continuando a correre, superando ambulanze automobili dello Stato Maggiore, un carro armato, un altro e un terzo, tutti fermi come pesanti tartarughe metalliche, irte di cannoni nella polvere che ancora non si era posata, incontrarono un altro posto di controllo dove c'era stato uno scontro. Un camion fermo non era stato visto dal camion che lo seguiva e questo l'aveva investito, fracassandolo nella parte posteriore e sparpagliando sulla strada casse di munizioni per armi portatili. Una cassetta si era frantumata e quando Gomez e Andrés si fermarono e spinsero avanti la motocicletta tra i veicoli fermi per mostrare il loro salvacondotto al posto di controllo, Andrés dovette camminare sui cilindri di ottone di migliaia di cartucce sparpagliate nella polvere sulla strada. La sentinella al posto di controllo non voleva restituire il salvacondotto. «Il mio foglio», gli disse Gomez. «Il salvacondotto, abbiamo fretta. Va all'inferno, tu e il tuo salvacondotto», disse l'uomo, e glielo tese. Poi attraversò di corsa la strada per fermare un camion che scendeva. Quando Gomez lanciò di nuovo la motocicletta sul lato destro della strada, ora sgombro, sorpassando il camion fracassato, Andrés, aggrappato di nuovo al sedile, vide la sentinella fermare un altro camion e il conducente sporgersi ad ascoltare. Ora correvano su un lungo tratto obliquo di strada che tagliava la montagna in senso ascendente e l'inclinazione era così forte, mentre si avvicinavano alla vetta, che Gomez gli disse di scendere e insieme spinsero la motocicletta fino all'ultimo scalino ripido del valico. A sinistra, proprio dopo la vetta, la strada descriveva un anello dove le macchine potevano girare e dei lumi brillavano le finestre di una grande costruzione di pietra, una grande massa lunga e nera contro il cielo. «Andiamo a chiedere dov'è il quartier generale», disse Gomez ad Andrés, e spinsero la motocicletta fin dove due sentinelle stavano davanti alla porta chiusa della grande casa di pietra. Alla porta, Gomez si rivolse a una delle sentinelle. «Sono il capitano Gomez della 65esima brigata», disse. «Potete indicarmi dov'è il quartier generale del generale Goltz, comandante della 35esima divisione?» «Non è qui», disse la sentinella. «Qui che c'è?» «La comandanzia». «Quale comandanzia?» «La comandanzia». «La comandanzia di che cosa?» «Oh, tu chi sei per fare tante domande?» disse la sentinella a Gomez nel buio. «Io sono il capitano Rogelio Gomez, del primo battaglione 65esima brigata, e ti domando dov'è il quartier generale di Goltz?» ribatté Gomez. La sentinella socchiuse la porta. «Chiama il caporale di guardia!» gridò dentro. Proprio in quell'istante, una grande automobile del comando svoltò la curva della strada e filò intorno alla grande costruzione di pietra davanti alla quale Andrés e Gomez aspettavano il caporale di guardia. Venne poi verso di loro e si fermò davanti alla porta. Un uomo alto, vecchio e greve, con un basco cachi a foggia ampia, come ne portano i chasseurs à pied nell'esercito francese, con un cappotto, una borsa per le carte e una pistola a tracolla sopra il cappotto, sbucò dal fondo dell'automobile con due altri uomini nell'uniforme della Brigata Internazionale. Mentre entrava nella porta con i due ufficiali, Gomez vide chiaramente la sua faccia illuminata e lo riconobbe. Capì di avere davanti una delle grandi figure moderne rivoluzionarie della Francia, che aveva organizzato l'ammutinamento della flotta francese nel Mar Nero. Gomez sapeva che quell'uomo occupava nella Brigata Internazionale un'alta posizione politica. Avrebbe certo saputo dove era lo stato maggiore di Goltz e avrebbe potuto dirglielo. Non sapeva come si fosse trasformato quell'uomo con gli anni, le delusioni, le amarezze domestiche e politiche, le ambizioni rintuzzate, e che interrogarlo era una delle cose più pericolose che si potessero fare. Ignorando tutto questo, tagliò risoluto la strada all'uomo, lo salutò col pugno chiuso e disse: «Compagno Martì, noi dobbiamo consegnare un messaggio al generale Goltz. Puoi indicarci dov'è il suo quartier generale? Si tratta di una cosa urgente». Il vecchio, alto e pesante, sporse la testa per guardare Gomez e lo esaminò attento con i suoi occhi acquosi. «Devi che cosa, compagno?» chiese a Gomez parlando in spagnolo con un forte accento catalano. I suoi occhi lanciarono un'occhiata di sbieco ad Andrés, gli scivolarono sopra e tornarono a fissarsi su Gomez. «Consegnare un messaggio urgente al generale Goltz, al suo quartier generale, compagno Martì». «Da dove viene questo messaggio, compagno?» «Da dietro le linee fasciste», rispose Gomez. André Martì allungò la mano verso il messaggio e gli altri documenti. Li guardò appena e se li mise in tasca. «Arrestali tutti e due», disse al caporale di guardia. «Falli perquisire e portameli quando li manderò a chiamare». Col messaggio in tasca entrò nell'interno della grande casa di pietra.